Sì, non so se l'hai visto, dov'è? Io l'ho trovato stamattina. Tonino non riprende. Grazie. Ok. Un po' sto cercando io, le bici scattata, Natalino. Poi anche sono nuovi, 135 euro, grazie. Però sembra un po' troppo, grazie. Lo trovassi con una mano da qualcuno, non sai se c'era qualcuno che lo sta dando? Ah, meno di 100 non te lo vendono, ti conviene comprartelo nuovo, perché per 35 euro già marì. Arrivi a quanto non ti ricado da nessuno, e sei sicuro e tranquillo. Io stavo pensando così, 135 euro costa. E forse hai ragione tu, ma adesso vediamo un po'. Babbo. Bene, Neva. Ok, sì, io ce l'avevo, mi ero caduto per terra, è tutto il passato di giro qui, giro il 30, voglio comprare il nuovo, e vedere un po', almeno ce l'ho nuovo e sono più tranquillo anche. Prendi la Natalì, dai, riprenditela. E K, vabbè, la dovete via, purtroppo è così, io non è se non ho lavorato. Se no è un macello qua. Ok, no problemi, io non mangio, se no te l'ho arrivato. Purtroppo, secondo una donna ne devo comprare uno anche io, là. Mi dirai dove ci sono, a quel prezzo lì, che è un prezzo molto accessibile, perché hanno sceso molto allora. Ah, sì, mi piacciono parecchio, poi sono buono il micro. Per cui, tu gliene vuoi l'altro, cazzo, sono apparito, cazzo, sempre dritto, cazzo, chi mi vede? E sto fermo pure le cose della memoria, i canali della memoria, sono fermi, e gira gira vanno, riesci via pure la cosa, cazzo. Il microfono mi fa di terra, chi dove c'è guasto? Il microfono mi fa di terra, così cava per un poco. E la pecca si sono bloccati i canali della memoria. Vabbè, secondo le apparizioni, magari lo conosco io e vediamo un po'. E certo devo andare in continente, così che lo porto via a coso, a Negrini lo porto a Torino, là. E lo porto a lui direttamente, anzi ci sto una settimana. Appena arrivo glielo lascio e me lo faccio mettere a posto, almeno sono tranquillo che me lo metto bene a posto, capito? Infatti, Giovanni. Se lo vado a allineare tutto è meglio che lo mandi pure, qua non c'è nessuno intanto che te lo fa. Poi no, conviene pagare, almeno te lo fare come si deve, essere tranquillo, capito? È inutile. a stare così non mi va. Babbo, rippe il capo tu. Loro, capito? Per cui no, i 27 non entrano. non l'ho più visto, la verità. Ma mi sembra che sia sempre con Mazzetto, capito? Lo vedo sempre con macchine sopra quel camioncino, capito? Lo vedo sempre così. Alla moglie non l'ho più vista, ma mi sembra che sta sempre lavorando lì, boh, facciamo il guardiano a Mazzetto prima, adesso non lo so. L'ho visto il giorno della festa qua, che è passato insieme con Macchisio. Loro fanno l'accompagnamento tutti gli anni, capito? Giovanni e Battizio, perché l'infilata fanno andare bene, capito? E per cui hanno questi apparecchietti, questi LPD mi sembra, o altri apparecchi, e lo vedo sempre così, capito? Mi scappa. Anda bene nera. Vabbè, là, io vi saluto che devo fare cose qua, ho appena finito di sistemare la situazione, ho risolto un'altra situazione qua e adesso posso andare come voglio. Ok, vi saluto, buon proseguimento e ci sentiamo alle prossime. Anche quelle stanno andando bene, per cui tranquillo. Va bene, anch'io mi attento già, dai, che un po' la gola asciutta vado a bere, per cui ci sembra magari più tardi se coincida, dai. Semplicemente serata e già ci sentiremo prima delle feste, ok? Ciao, grazie alla chiacchieratina.